nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Buona domenica, bentornati a Nessuna è Perfetta, il programma di Radio 24 dedicato al mondo del lavoro visto in un'angolazione particolare, quella femminile, il difficile compito di conciliare lavoro, vita familiare e anche obiettivi professionali, vita in azienda, tutto quello che il lunedì mattina talvolta ci pesa. E lo sapete, ogni santa puntata di Nessuna è Perfetta comincia ricordando prima di tutto a noi stesse di non farci fregare. Ci siamo fatti fregare per anni con la mistica del multitasking, un trucco inventato per complicarci la vita, la convinzione che si può fare tutto e tutto bene e tutto contemporaneamente. No, lo ricordiamo ogni settimana, Nessuna è Perfetta. Il multitasking è una fregatura e non lo diciamo soltanto noi, lo dicono anche gli scienziati dell'MIT. Earl Miller, per esempio, dice fa male al cervello. Ma oggi parliamo anche di un'altra cosa che fa male, non per, come dire, inquietarci nel giorno del riposo, ma per approfondire qualcosa alla quale magari talvolta non pensiamo. Ci sono cose, cibi che fanno male, alimentazioni che invece di farci sentire in forma durante la settimana mentre siamo al lavoro, peggiorano il nostro standard. E questa puntata di Nessuna è Perfetta è proprio dedicata a scoprire come e quanto una corretta alimentazione possa aiutarci anche in ufficio, in qualsiasi professione noi stiamo svolgendo. Pensate che il rapporto Food at Work Workplace, Solution for Malnutrition, Obesity and Chronic Disease, il rapporto pubblicato dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, sostiene che una non adeguata alimentazione nei luoghi di lavoro nuoce alla salute dei lavoratori, e questo magari alle aziende interessa, ma relativamente, ma non solo, invece comporta una perdita di produttività pari al 20%. Questo stesso rapporto indica che investire in un'alimentazione sana ed equilibrata incide in modo significativo sul benessere psicofisico del lavoratore e con vantaggi sia per lui ovviamente che anche per l'azienda, perché c'è una riduzione dei giorni di malattia e di infortunio e, lo dicevamo, un aumento del tasso di produttività. E quanto sia importante difendersi dalle trappole dell'alimentazione cattiva, del cibo adulterato, lo dimostra anche il successo che ha avuto in Francia e nel resto del mondo di un libro che potrebbe influire anche sul nostro modo di fare la spesa, sulle nostre abitudini alimentari. Il libro è Siete pazzi a mangiarlo, col punto esclamativo, pubblicato da PM. L'autore è un francese, Christophe Brousset, un ingegnere, ex manager nell'industria agroalimentare francese. Per 20 anni ha lavorato per grandi aziende del cibo, comprando da ogni parte del mondo le materie prime che poi finiscono nelle preparazioni alimentari, nei prodotti, nei piatti pronti ai quali tante volte io per prima ricorriamo noi quando abbiamo poco tempo per preparare o cucinare, non se ne parla nemmeno. Uno che fa, passa dal supermercato e compra i piatti pronti. Christophe Brousset, in Siete pazzi a mangiarlo, ci racconta cosa c'è talvolta dietro i nostri acquisti alimentari. E io voglio proprio sapere che cosa c'è, ce lo facciamo raccontare dal nostro agente provocatore di questa settimana. Benvenuto a Davide Turrini, giornalista del fattocotidiano.it, che proprio per il fattocotidiano.it ha letto e recensito Siete pazzi a mangiarlo. Benvenuto. Buongiorno Maria, buongiorno ascoltatori. Allora, sulla copertina di Siete pazzi a mangiarlo c'è la foto di un carrello del supermercato completamente vuoto. Leggere un capitolo del libro, quello per esempio sugli additivi, sì, induce poi a correre in cucina e cominciare a guardare tutto quello che, ogni sigla alfanumerica che c'è sulle nostre scatoline, inclusa quella della tisana della sera. Che cosa è che ti ha colpito particolarmente? Sì, è questa sorta di paura recondita di essere lì a mangiare chissà che accidenti, e questo mi ha impaurito, diciamo, più da consumatore, o come definisce Brousset, il gonzumatore, cioè il consumatore gonzo. Cioè, fondamentalmente siamo di fronte a una grande frode dell'agroalimentare. Non sappiamo esattamente quello che c'è dentro alla maggior parte dei prodotti scatolati, surgelati, che, come dicevi tu prima, così al volo si passa dal primo supermercato, ma proprio perché ti salva la vita, perché non abbiamo più un minuto di tempo, vorremmo fare quel buon sughetto con quel pelato. Ho letto della contraffazione dell'origano, che è letteralmente sostituito in percentuali sempre maggiori dal sommacco. Che cos'è il sommacco? È semplicemente una sostanza, ovviamente una naturale, che viene, come dire, in questo caso siamo nella parte delle frodi legata ai prezzi, cioè il sommacco costa pochissimo, assomiglia tanto all'origano, profuma molto meno, ma ovviamente nelle piccole confezioni di origano in polvere nessuno se ne accorge. E Brousset ci indica anche che sono tanti, come dire, gli elementi che consentono questa cattiva alimentazione, cioè c'è anche una legislazione molto vaga, quindi in buona sostanza capitano dei controlli una volta ogni tanto, molto sommari, magari alla quindicesima scatola quando ce ne sono 1500, ma Brousset ci spiega nel libro che la lavorazione di 1500, 15.000, 150.000 scatole è un qualcosa di molto più, come dire, raffinato in termini. Senti Davide Turrini, possiamo fare degli esempi di cibi dai quali tenersi a distanza secondo quanto scrive Brousset nel suo libro? Ovviamente. Allora guarda, la sostanza che meno mi dà fiducia dopo aver letto questo libro sono le spezie in polvere, che siamo così abituati a mettere sui cibi. Le spezie in polvere, in alcuni casi raccontati da Brousset, che è stato davvero, realmente, questo sì, un dipendente di una grande... Sì, l'abbiamo spiegato. Avete detto. Vengono sostituiti in alcuni casi anche da escrementi di animali, perché queste spezie arrivano da lontano e per pagarle meno, insomma, chi te le porta ti lascia anche dei regalini. Altre questioni importanti: i salumi gonfiati con i polifosfati, la ricerca del nostro Brousset di una fettina di prosciutto cotto da mettere nel cordon bleu è una specie di girone infernale, cioè arriva di fronte a degli enormi, non dei più dei prosciutti, ma dei parallelepipedi proprio squadrati, di varie decine di chili, quelle diventeranno delle fettine di prosciutto che vanno nel cordon bleu. Ma che cosa c'è dentro? Ci sono sicuramente polifosfati che rendono, intanto gonfiano il prodotto, e poi dopo lui racconta di queste immersioni in bagni di additivi. Lui gli additivi li chiama le polverine magiche, parla della Francia, ce ne sono ben 330 di additivi, di polverine magiche in Francia, e ne cito uno, l'acido citrico per esempio. Noi diamo per scontato che nei nostri cibi ci debba essere l'acido citrico, anche nelle bevande gasate eccetera. Allora, fate semplicemente una ricerca su Wikipedia. In una delle voci della pagina acido citrico c'è: sicurezza, è irritante per contatto con la pelle e gli occhi, per cui va utilizzato abbigliamento protettivo quando si manipola, un consumo eccessivo può intaccare lo smalto dentale. Cioè già Wikipedia ci mette al corrente che l'acido citrico è una molecola, e in questi chimica. Prosciutti cosiddetti prosciutti cotti, diciamo esaminati da Brousset per il suo libro, l'acido citrico era ben presente. Presente, come presente nei formaggi. Sai, la Francia è patria dei formaggi, invece i formaggi, che la maggior parte, il 90% dei formaggi che finiscono in questi prodotti conservati, vengono mescolati con acqua, con polifosfati, citrato di sodio e acido citrico. Di fondo Brousset ci dice: tanto chi è che si ricorda qual è il sapore del formaggio originale? E ne cita tanti, no? Dallo chèvre al brie, eccetera. Dice: quello che arriva poi conservato è una sorta di soluzione media mescolata con questi additivi. E è importante questo aspetto, perché davvero diamo per scontate molte cose, no? Cioè il fatto che comunque ci fidiamo di chi ci dà ci vende un prodotto, e in questo caso Bruxelles davvero ci dice: il re è nudo, attenzione, non vi dovete fidare di nessuno. Quindi dopo aver letto il libro, uno prima di comprare una scatola di prodotto in polvere, è buona norma che si vada a leggere magari con gli occhiali tutti le micro indicazioni. Leggetevi tutto e cercate alcune sigle, ce ne sono alcune sigle alfanumeriche, no? Quindi c'è la lettera e i numerini, andate a vedere che cosa sono e cercate di capire come sono stati conservati questi prodotti, perché davvero secondo me lì fa la differenza. Io posso solo dare un consiglio. Un consiglio per esempio a chi mangia in mensa, che cosa dovrebbe chiedere a chi organizza l'alimentazione di un'azienda, per esempio? Guarda, io punterei banalmente sul chilometro zero. Cioè, questo è davvero il momento in cui, di fronte a questa massificazione della frode alimentare, bisogna tornare a prendere quei prodotti che nel giro di poche ore, un giorno al massimo due, non sono più mangiabili. Lo so che purtroppo può diventare una perdita a livello aziendale, e qui entra il discorso macroeconomico, eccetera. Però di fondo, a livello alimentare, a livello salutistico, il punto è questo: abbiamo bisogno di prodotti, alimenti, frutta, verdura, eccetera, che non ci facciano star male. Sì, che non ci facciano star male, che si possono consumare nel giro di 24-48 ore. Cioè, il chilometro zero diventa molto importante. Poi è chiaro, come dicevi tu prima, ci sono anche aziende che lavorano bene. Però di fondo la massificazione del prodotto ha creato questo scompenso impressionante, devo dire. Grazie a Davide Turrini del fattoquotidiano.it, che ha raccontato per noi il saggio di Bruxelles, Siete pazzi a mangiarlo, un libro pubblicato da PM che si annuncia di grande interesse per chi ha a cuore la propria alimentazione. Grazie a Davide Turrini. Grazie a voi. Grazie. A presto. Nessuna è perfetta. Eccoci bentornati, la seconda parte di Nessuna è perfetta. Sapete che questo è il momento della nostra Sunday Girl, e questa Sunday Girl di questa domenica è davvero una bomba. Si pensa che nella vita ci si reinventa anche dopo i 50 anni, come si fa a non pensare a Mara Maionchi, produttrice discografica per grandi major come Sony e Warner, poi produttrice indipendente e poi di colpo diventata una presenza televisiva di grande successo in programmi come X Factor. Bene, noi questa domenica abbiamo Mara Maionchi anche in versione esperta di alimentazione, perché il 16 marzo su Sky 1 torna Celebrity MasterChef, la versione italiana del più celebre dei cooking show del piccolo schermo. Con Mara Maionchi ci saranno Alex Britti, ci sarà Antonio Capitani, che come avete anche avuto occasione di ascoltare è stato nostro ospite qui a Nessuna è Perfetta, ci saranno Maria Grazia Cucinotta, Roberta Capo, Filippo Magnini. E però Mara, dai microfoni ai fornelli, tu cosa fai per mangiare bene? Abbiamo appena citato il libro di Christophe Brousset, un manager della distribuzione francese, che rivela cose tremende che troviamo in cibi pronti. Pensa, nell'origano certe volte alle analisi che ha fatto fare sono risultati persino escrementi di topo. Pensa, tu come ti difendi dal cattivo cibo? Ciao, buongiorno a tutti. Prima di cominciare a parlare, devo dire che in effetti è molto cambiato tutto questo. Una volta l'origano ce l'avevi fuori casa, voglio dire, manca. Io devo dire, lo tengo sul terrazzo dentro due vasi, c'ho l'origano, c'ho un po' di queste erbe, per cui devo dire, certo è tutto pericoloso, perché tutto quello che fa far soldi oggi è pericoloso. Per mangiare bene bisogna mangiare poco, perché devo dire quella è una salvezza. Ho scoperto alla mia età come mai mio padre non era mai non aveva mai cambiato peso nella sua vita, perché lui mangiava poco e mangiare di tutto, cercando ovviamente di evitare la carne eccessiva, di evitare tutti gli eccessi e di stare attento alla purezza del cibo, voglio dire, a questa parte vegana delle cose buone. Ma questa parte, cioè, è un po' tutto, capito? Possiamo stilare una dieta per chi per esempio fa della voce del suo corpo un punto di forza della sua professione, per esempio i cantanti? I cantanti devono mangiare esattamente come noi, non è che il miele per esempio molte volte addolcisce le corde vocali, addolcisce, ammorbidisce la gola, poi devono mangiare regolare, sei chiaramente prima di uno spettacolo meno mangi, meno peso hai sullo stomaco e quindi sei un po' più libero di appoggiare sul famoso diaframma la tua voce, che sicuramente ti farà fare meno fatica se la usassi solo invece di gola, capito? Per cui ci sono delle attenzioni tecniche, che è chiaro che come i grandi nuotatori, tutti un po' gli atleti, quelli che fanno cose particolari hanno delle attenzioni particolari, ma anche noi devo dire, poi passa, sai, a 20 anni va bene tutto, Sì, certo. a 20 anni è una gioia, voglio dire, poi pian piano devi, non dico togliere, secondo me non è giusto togliere, certo attenzione a acquistare dei cibi che siano buoni, che siano freschi, che non siano, sono freschi, e poi certamente diminuire le quantità, quello è fondamentale. Senti, secondo ma me. Cosa farai tu come concorrente di Celebrity Masterchef su Sky 1? Allora io farò quello che i grandi chef mi dicono di fare, loro ti danno dei compiti che tu devi assolvere in tot di tempo, cercando di fare un piatto decisamente di buono, almeno discreto. Qual è il tuo punto di forza? Intanto tu cucini nella vita normale? Io cucino nella vita normale, ma se pensi che fare lo chef sia come cucinare nella vita normale, non è così. Lo chef ha proprio una mentalità diversa, deve preparare dei piatti particolari, devi farli vedere. Io quando metto in tavola un piatto di pasta asciutta, la metto alla viva al parroco, metto lì la zuppiera, ognuno si serve le mie piatti. E invece lì no, lì c'è l'impiattamento, che per me è stata una delle cose più difficili da fare durante il percorso mio a MasterChef, perché l'impiattamento lo devi già pensare mentre tu cuoci le vivande. Perché l'impiattamento è come se tu fossi un pittore, per amor del cielo, con il dovuto rispetto, ma usi colori, per dare già il senso finale dell'opera, per cui è una cosa difficile. Io pensavo, metto lì un po' bene, invece l'impiattamento deve avere un gusto, una voglia di farti mangiare il piatto che gli hai fatto e un gusto che sia anche rappresentativo di un alimento, guarda, è molto difficile fare gli chef, devo dire, grande rispetto per questi. Siamo molto, che io... molto curiosi di vedere gli impiattamenti di Mara Maionchi. Ma poi ci dirai anche come sì. si può equilibrare una visione piacevole di un piatto con il contenuto, perché per esempio quando vai al supermercato a volte sei conquistata dal piatto pronto che si presenta bene, poi se andiamo a vedere le indicazioni dei contenuti, forse invece quella bella presenza del piatto si deve a un sacco di cose pessime, di ingredienti, di come l'acido citrico di cui parlavamo prima. Sì. Io devo dirti la verità, non sono una fan dell'acquisto già fatto, io preferisco una cosa semplice, un piatto di pasta asciutta a casa, ma sono una un po' alla vecchia, d'altronde non avrei motivo di ne essere differente, voglio dire, visto che io sono abbastanza vecchia. Ma dai, parliamo di questo bellissimo tuo modo di vivere la tua età e soprattutto il fatto di essere stata capace di reinventarsi in ogni stagione, perché tu sei partita dal Festival di Sanremo, no? Perché io sono partita nel 1967, quando prima di trovare questo lavoro nella discografia. Io facevo altri lavori, ho lavorato in un'azienda che faceva prodotti anticrittogamici, facevo le relazioni sulla peronospora del tabacco con il mio entomologo, facevo questo lavoro, facevo altri lavori, facevamo una serie di un'azienda che faceva degli impianti antincendio, quindi lavoravo anche, facevo le manifestazioni per i pompieri, ho fatto tanti lavori. Poi un giorno sul Corriere della Sera ho trovato la casa discografica, lì ho cominciato a lavorare e lì ho capito che il mio mestiere, se ero attenta, sarebbe stato quello, e quello è stato per 40 anni. Poi mi sono messa in proprio e poi improvvisamente la Sony mi fece questa proposta di X-Factor, mi sono messa a fare X-Factor. Poteva rimanere un caso singolo, ma per fortuna, per destino, le cose sono andate differenti. Ma anche perché tu non hai mai paura, ho mai avuto paura di ricominciare. Quindi se tu avessi un consiglio, no, da dare alle ascoltatrici che magari hanno più di 50 anni e si trovano in una fase difficile della loro vita professionale, sì. Sono tanti e tante che purtroppo in questo momento magari non hanno una visione chiara di quello che sarà il loro futuro, che gli diresti? Ma guarda, io non ho mai avuto una visione così chiara del mio futuro, ho sempre pensato a lavorare, ho sempre pensato che avevo bisogno anche di lavorare, perché non è che io ero figlia o avevo guadagnato così tanto nella mia vita, da star bene, come giusto che sia. Però certamente certe volte avere il coraggio di reinventarsi o di inventare delle cose che sono neppure immaginabili, voglio dire, bisogna avere il coraggio, non affezionarsi troppo. La vita è una cosa da vivere, non da affezionarsi eccessivamente, magari c'è un'abitudine a fare sempre lo stesso lavoro. Io credo che i cambiamenti molte volte sono anche, ti danno un senso di forza, di lotta. La lotta è costante, per cui la lotta è riuscire in altre cose, avere la curiosità e anche la fortuna, ma quella è la base per Mara, mi metto nei panni di una 25enne o di un 30enne che ti ascolta e dice: beh, bella forza signora Maionchi, lei certo. È vissuta in una fase in cui l'Italia e in generale il mondo offriva tante possibilità. Oggi bello dire ricominciare, cambiare eccetera, ma uno che magari è riuscito a 30 anni ad agguantare un lavoro, all'idea di cambiare di nuovo in un contesto così insicuro e incerto non è tanto contento. Allora, visto che con i ragazzi nel mondo della discografia tu ci hai vissuto tutta la vita, che consiglio dare invece? Nel mondo della discografia, voglio dire, siamo veramente in un punto tra i più drammatici, soprattutto in Italia, dove abbiamo poco rinnovamento, dove non siamo andati avanti più di un periodo storico. Noi siamo ancora fermi a certi anni. Gli americani e gli inglesi hanno uno scritto, noi abbiamo anche tanti handicap. Non abbiamo locali dove poter suonare, dove poter imparare, dove incontrare i propri fans, eccetera. Abbiamo tanti handicap che dovremmo cercare di aiutare anche questi giovani a. E poi sapere che se ti reinventi mentre fai qualcos'altro per scrivere una casa, ma questo lo puoi fare a 20 anni, ma lo puoi fare, però certi lavori, voglio dirti, creativi devi cominciarli da subito, è meglio a 20 anni. Io ho visto mia figlia che lavorava con me, poi dopo le cose sono andate non bene nella discografia, abbiamo chiuso, adesso fa delle cose ma particolari, degli spot su, lei aveva fatto però lo Yulm, una scuola di Prosecco. Quindi ha scelto di reinventarsi da un'altra parte, da un'altra parte con un mestiere creativo, fa dei piccoli spot per piccole aziende che vanno solo in internet, è una cosa da coltivare internet, questa cosa del blogger, che per carità è una cosa che io non avrei mai pensato esistesse mai nel mondo, queste ragazze che hanno, la Ferragni è la numero uno in assoluto, ma ci sono tante altre ragazze che fanno a livello magari minore, ma che fanno dei lavori che sono redditizi, tanto. Quindi guardare in giro e cercare però qualcosa che abbia un aggancio con la realtà, perché non tutti i blogger possono vivere di blog, e poi invece bisogna guardare anche al fatto che la vita costa e non sempre mamma e papà possono mantenerti per decenni. E poi, è anche sbagliato da parte di chi se lo fa, farsi mantenere papa. Ogni tanto posso capire un aiuto, ma questo che voglio dire, ci sono dei lavori insospettabili, almeno parlo di me, parlo di ignoranza, io sono ignorante, non immaginavo che ci fossero delle cose dove uno poteva campare dignitosamente facendo un lavoro completamente diverso, facendo delle cose che neanche io ti saprei però dire. Vedi, l'apertura mentale è quella che aiuta, e quindi adesso siamo curiosissimi di vedere Mara Maionchi al Celebrity Master Chef. Mentre ti salutiamo, guarderai Sanremo? Sì, sarò a Sanremo, farò una cosa in internet, dei commenti in internet. Ah, vedi? Anche questa, vedi, mi sono inventata, perché io internet è una cosa che... No, ma farò dei commenti, troverò delle persone, farò delle interviste, ma non certo a livello giornalistico, a livello musicale, e con voi come sono io, sai, non sono una persona seria, questo è il problema vero della mia vita. E questa è anche la tua forza. Grazie Mara Maionchi, sempre grazie. Piacere, sempre un piacere con te. A presto, allora. A tutti che trovino nella loro vita la forza di combattere e di trovare delle soluzioni. Glielo auguro di cuore. Che la forza sia con loro, come si dice in Star Wars. Che la forza sia con loro, ma è così. Grazie ciao. Mille. Ciao, grazie. Grazie. Ciao. Ciao a te. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma di Radio 24 che parla di lavoro, di vita nelle aziende, di vita negli ambienti di lavoro, con una particolare attenzione al punto di vista femminile. Questa settimana la nostra attenzione si concentra sul binomio lavoro-alimentazione, perché mangiare male ha effetti sulla nostra giornata di lavoro, ci rende più nervosi, ci può affaticare. Dal punto di vista dell'azienda ci rende meno produttivi, dal nostro punto di vista ci fa sentire meno bene. E dunque ne parliamo subito con il nostro esperto, dottor Marco Temporin, medico chirurgo e nutrizionista. Dottor Temporin, in apertura della nostra puntata citavo il rapporto Food at Work Workplace, il rapporto pubblicato dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, secondo il quale una non adeguata alimentazione non soltanto procura una perdita della produttività all'azienda, un meno 20%, ma ovviamente nuoce alla salute dei lavoratori. Nella sua esperienza di nutrizionista, ha visto crescere questa consapevolezza nelle mense aziendali, nel fatto di portare dei cibi più freschi, meno pieni di additivi, pensando appunto alla salute dei lavoratori? Sì, allora intanto un saluto a tutti. È proprio così, ovvero un'alimentazione più attenta e più consapevole permette agli stessi lavoratori di avere una miglior attività lavorativa e oltretutto anche avere una rendita migliore. Ecco, se lei dovesse consigliare, suggerire a chi lavorando a poco tempo, sia per prepararsi poi la cena a casa che ovviamente per il pranzo che consuma magari nella mensa aziendale o nel bar vicino all'ufficio, che consiglio dare partendo dalla colazione? Secondo alcuni cioè, quel mito della colazione abbondante del mattino non si applica a tutti e non sempre funziona. E poi che fare a metà mattinata? E poi cosa mangiare a pranzo quando spesso si mangia al bar? Certamente. Allora, innanzitutto partiamo dalla colazione. In realtà viene considerato un pasto da assumere in modo frugale, magari anche solo un caffè al bar. E in realtà la colazione è un po' il pasto re della nostra alimentazione quotidiana, in quanto ci permette di ottimizzare le energie per la giornata. E inoltre, considerando anche che soprattutto anche in Italia ultimamente stiamo avendo un grosso aumento del sovrappeso e dell'obesità, non far colazione vuol dire non solo ridurre le proprie capacità lavorative, ma anche favorire ovviamente l'obesità. Perché poi cioè si ingrassa di più se uno al mattino non mangia? Sì, perché poi al mattino poi noi non mangiamo e andando avanti nella giornata ovviamente avremo dei cali, definiamoli energetici, perché ovviamente il nostro corpo consuma, e andremo a cercare cibi ad alto indice glicemico, dolci, dolciumi e quant'altro, e questi picchi glicemici che poi creano ovviamente di risposta un'ipoglicemia, ci crea proprio una reazione a catena nel quale noi assumiamo cibi molto grassi e zuccherati che nutrono poco ma ingrassano molto. Che cosa fare quindi dopo una buona colazione in cui mescolare magari cereali, latte, fette biscottate, cioè sul carboidrato al mattino alla prima colazione si può insistere, no? E poi a pranzo proteine? Allora, innanzitutto tra la colazione e il pranzo è sempre bene spezzare la giornata utilizzando magari dei cibi molto rapidi come possono essere dei semi oleosi, noci, mandorle, nocciole, anche in ufficio si possono consumare in pochi minuti, hanno degli acidi grassi poliinsaturi che aiutano tantissimo anche la nostra concentrazione e inoltre non vanno a creare un lavorio della nostra digestione, per cui non sono impegnativi da digerire. Se ci fosse la possibilità di mangiare un frutto, questo sicuramente è ancora più consigliabile. È il momento giusto. E a pranzo? Allora, a pranzo diciamo vale un po' il concetto della colazione, ovvero prima di tutto se possibile bandire tramezzini, panini, anche in questo caso pasti frugali, insalatone, perché sono cibi che hanno un alto indice un alto indice glicemico ma hanno un basso potere nutritivo. Quindi le insalate sì, il panino no. Esatto, quindi l'insalata sì, magari accompagnata anche a una porzione di carboidrati come il riso, per esempio il riso basmati che è molto assimilabile, si consuma velocemente ed è molto buono anche bianco senza particolari condimenti e non va poi ad appesantire la digestione. Comunque non è sconsigliata nemmeno un buon piatto di pasta o altri cereali, eventualmente anche un piatto proteico accompagnato da una fetta di pane integrale o dei legumi. E la sera invece possibilmente saltare, no, molto leggero. No. Allora, la sera innanzitutto non saltare mai i pasti, perché questo è un grosso errore e ovviamente va a limitare anche le nostre capacità lavorative. La sera però il corpo va verso la fase di riposo, quindi la digestione non va sicuramente resa impegnativa. Molto spesso invece dopo una giornata stressante ci sediamo a tavola e ci rimaniamo anche troppo perché ci rilassiamo, quindi mangiamo qualcosa in più, beviamo magari un bicchiere di vino di troppo, però tutti questi alimenti tendono ad appesantire il nostro riposo notturno e poi la mattina ci svegliamo stanchi. Di conseguenza io consiglio sempre, soprattutto adesso approfittando anche del periodo invernale, alla sera se non manca una buona zuppa di verdure e legumi o comunque un piatto con proteine nobili sempre accompagnato da una notevole quantità di verdure fresche. Mi pare che sia proprio chiarissimo il messaggio che ha mandato. Io volevo chiederle un'ultima cosa prima di salutarla e invece intanto salutare Katia Daros, amministratore delegato e vicepresidente di Irinox, un'azienda di Treviso tra i numeri uno mondiali delle tecnologie per la ristorazione. Benvenuta Katia. Buongiorno, ecco. Grazie. Nel salutare il dottor Temporin che ci deve lasciare, io volevo chiederle, abbiamo cominciato questa puntata citando il saggio scritto da un manager della grande distribuzione francese, un ex manager, Christophe Brousset, che ha scritto un saggio che si intitola Siete pazzi a mangiarlo, nel quale mette in luce tutte le scoperte che ha fatto nella sua esperienza di manager nella grande distribuzione. E dunque l'origano che non è origano, ma nelle migliori circostanze si chiama sommaco e vale molto meno dell'origano, nelle peggiori ci sono polveri di erbe che contengono addirittura escrementi di topo, e poi polveri per fare il purè che contengono le peggiori schifezze, eccetera eccetera. Dottor Temporin, nelle aziende quando una va alla mensa aziendale non è che può chiedere scusi ma questo purè con quale polverino è fatto, allora come ci si difende? Allora io parlo per le aziende che conosco, ultimamente stanno migliorando molto la qualità dei cibi e vi è una decisa tracciabilità di questi prodotti in alcuni punti di ristorazione. Vi è anche tutta l'indicazione degli ingredienti e di quello che viene utilizzato, per cui diciamo che ci stiamo ovviamente prodigando per lavorare sempre al meglio affinché l'utente finale, quindi il consumatore, possa essere ben conscio di quello che assume. Grazie dottor Temporin, grazie per essere stato con noi. Ci fermiamo qualche minuto e torniamo tra pochissimo. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Nessuna è perfetta. Siamo tornati e a proposito di alimentazione sana chiedo a Katia Daros che nella sua azienda appunto produce gli abbattitori rapidi di temperature, quelli che vanno nelle cucine dei grandi chef, ma ora anche nelle nostre cucine, volendo, perché è nato Freddy, il piccolo abbattitore domestico. Perché aiuta a mangiare più sano? Allora, innanzitutto l'abbattitore, come diceva lei, è nuovo nelle cucine domestiche perché noi abbiamo inventato proprio questa prima macchina per la casa nel 2002. In realtà nelle cucine professionali esiste da molto più tempo, dalla fine degli anni 70. Perché ci aiuta? Ci aiuta perché riesce a gestire il tempo, che è una delle variabili che oggi gestiamo parzialmente col frigorifero, in maniera migliore. E allora semplifica il nostro rapporto con la spesa, che è un momento indispensabile per quello che si mangia, semplifica la conservazione perché la prolunga e la migliora, e semplifica anche la preparazione del cibo. Allora io dico sempre, mangiare è importante, però abbiamo tutti delle vite molto piene di lavoro, piene di hobby, di impegni, eccetera. Di impegni. E quindi questa attrezzatura fa sì che io possa gestire ugualmente bene questo momento di preparare quello che mangio in casa, però con maggiore flessibilità. Quindi diciamo, da un lato l'abbattitore domestico, il Freddy, questo piccolo Freddy è fresco, abbiamo due versioni sì. diverse, ecco. Una che va d'incasso, quindi se mi sì. faccio la cucina nuova la metto di fianco al forno, e invece abbiamo una macchina più piccola che si può appoggiare già su una cucina esistente, si chiama fresco, è più compatta, è piccola, quindi diciamo si può inserire un Gli po' Gli effetti ovunque. Sono, da un lato diciamo se c'è la possibilità che in un frigorifero un cibo conservato per giorni poi produca magari un batterio, qualcosa che può farci stare male, invece se noi usiamo l'abbattitore qualsiasi rischio di batteri viene abbattuto, capisco bene, è così? Sì, diciamo che gli elementi sono due, sono diversi. Sicuramente quando io cucino qualcosa, quindi raggiungo alte temperature e poi lo mangio, perfetto, quel cibo è sano, è buono, però spesso io ne faccio una quantità superiore o perché mi avanza o perché magari so che domani non ho tempo di cucinare ugualmente, faccio una quantità superiore, la raffreddo in qualche modo lasciandolo in cucina mezz'ora, un'ora e poi la metto in frigorifero. Quel cibo ha già iniziato ad invecchiare. Quindi il giorno seguente sicuramente non è buono come oggi che l'ho preparato, e andando avanti con il tempo può sviluppare anche dei batteri in modo che il cibo, diciamo, mi faccia male, ma questa è una situazione estrema. Però da solo l'abbattitore cosa fa? Raffredda velocemente quel cibo, quindi io devo immaginare con il forno caldo velocemente, con l'abbattitore raffreddo, quindi metto dentro un cibo caldo, faccio un esempio. Facciamo un risotto. Facciamo, ma anche semplicemente una zuppa, dove ci sono dei vegetali, quindi l'inverno, la zuppa, le creme sono una di quelle cose che di solito a cena uno si fa, e quindi io lo raffreddo velocemente, lo metto in frigorifero e quella zuppa rimane buona, perfetta, con quel sapore, con quei colori per 7 giorni. Cosa impossibile con un frigorifero. Normale, invece con l'abbattitore si mantengono, diciamo, tutte le qualità delle verdure senza consentire che possa insorgere qualche batterio. Io parlo di batteri perché sono rimasta molto colpita dalla lettura di articoli in passato che citavano diciamo la pericolosità del pesce fresco. Tutti noi siamo dei grandi consumatori di sushi, no? Però certo, il pesce crudo può anche essere un grande rischio. Come funziona la sicurezza per il pesce che uno compra, che può mettere poi nell'abbattitore? Qual è la garanzia? Allora, nel caso del pesce crudo, tutto quello che è crudo ovviamente è più pericoloso perché è un substrato perfetto per i batteri. Nel caso del pesce c'è questo verme che è un parassita che si chiama Anisakis, che si può trovare all'interno dello stomaco e si può trasferire alla carne del pesce se non viene trattato adeguatamente e viscerato velocemente. E parliamo di pesci comunissimi come il pesce spada, il tonno, la sardina, il merluzzo, quindi cosa che mangiamo comunemente. Allora, se io lo cucino e supero 65 gradi, nessun problema, però ovviamente un pesce mangiato crudo, può essere anche un semplice carpaccio, non lo cucino. Allora cosa dice la legge? Che poi diciamo lo dice proprio per aiutarci a non avere problemi, che il pesce va sanificato, cioè va posto a una temperatura di meno 20 e una volta raggiunta meno 20 deve rimanere a questa temperatura per almeno 24 ore. In questo modo sono sicuro che la larva dell'Anisakis non c'è e quindi io posso mangiarlo con totale sicurezza. Ovviamente questa cosa la posso fare con un buon freezer di casa, però sappiamo che un buon freezer rovina il prodotto perché è un conservatore, quindi serve una macchina che è in grado di surgelare in maniera veloce e questo lo fa proprio l'abbattitore di temperatura. Quindi... Senta, Katia da Ross, che appunto ha una storia di famiglia perché la sua azienda l'Irinox e l'idea di produrre abbattitori prima per grandi aziende, poi adesso moltissimo per le pasticcerie, i grandi chef pasticceri sono vostri clienti, vero? Assolutamente, ecco. Soprattutto in Italia devo dire che abbiamo una diffusione molto importante, lavoriamo con i più grandi nomi della pasticceria ed è un grande onore. Ci racconta in chiusura una ricetta che lei fa a casa per sua figlia, per suo marito, e che funziona molto bene con l'abbattitore? Non giuro che poi la copierò perché sono un disastro in cucina, però magari ne traggo, come dire, stimolo per migliorare. Ritorno, Maria, alla ricetta che stava indicando lei prima, che è quella del risotto, che è una cosa che sembra incredibile, ma invece si può fare. Normalmente quando faccio un risotto ho bisogno di molto tempo, servono almeno 40-50 minuti dal momento in cui faccio il soffritto e tutto il resto. Allora, con l'abbattitore cosa posso fare? Con l'abbattitore posso fare una cottura a tre quarti, quindi 10-12 minuti, come fare normalmente, quindi la tostatura, faccio il soffritto, metto il riso, ci metto un po' di brodo. Vino, il brodo, esatto. Dopo 10-12 minuti spengo il gas, questo riso che è parzialmente cotto lo spalmo su una teglia e lo metto in abbattitore a 3 gradi. Viene raffreddato velocemente, quindi la cottura viene bloccata. Dopo diciamo 15-20 minuti, che è completamente freddo, lo metto in frigorifero. Io ho diversi giorni, 5-6 giorni, per riportare quel risotto a fine cottura. Quindi se io dopo 5 giorni ho degli amici a cena e voglio fare un risotto, ci metto un quarto d'ora dopo a finirlo e non 45 minuti come avrei messo normalmente. Ci metto 5 minuti ed è semplicissimo. Su una pentola metto un bicchiere d'acqua, scaldo l'acqua, metto dentro il riso che avevo tenuto in frigorifero. In 5 minuti arrivo fine cottura, faccio la mantecatura con un filo d'olio o con il burro, 2 cucchiai di parmigiano ed è perfetto, finito. 5 minuti. Beh, considerato che domenica ci è venuta già l'acquolina in bocca, grazie a Katia da Ross, amministratore delegato e vicepresidente di Irinox, e buona domenica. Grazie. Buona domenica a tutti voi che ci avete seguito, noi ci troviamo come sempre domenica prossima, eppure questa domenica state attenti al multitasking, che è una fregatura.